facile, lo so, però è mia tua musica allo stato puro, ti ripigli di sicuro. Sarebbe bello essere nuvole, avere un mondo da inseguire, fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. È il programma col cuore di un bambino, è il cammino di Gigi D'Agostino. Musica più lenta che pace che spera, veloce poi più lenta, violenta e sincera. Musica più lenta che mace che spera, veloce poi più lenta, violenta e sincera. Chi viaggia poco resterà piccino, il cammino di Gigi D'Agostino. Movimenti incoerenti. Giorno alle 18. Suono buono. Il suono buono. Il suono buono. Il suono buono. Il suono buono. Ti dico fermalo. Mi piace, questa qua è forte, forte, molto forte questa qua, dimmi un po' di chi è. Pigia pigia, lento violento man. Ti sei perso un'altra volta? C'è Gigi D'Agostino, fermati e ascolta. Ma sta a giocare qua. Stai ascoltando. Titolo, artista, versione, minutaggio. La trovo in vendita o me la devo scaricare? Mo si attaccamo tutti al cazzo. www.ggdagostino.com e fai la votazione. Ti si apre la paginetta e scegli la canzonetta. Per votare basta cliccare. A fianco al titolo troverai un pallino e lì dentro metterai il votino. Chi vota poco resterà piccino. Il sondaggino di Gigi D'Agostino. Io gioco con la musica, mi diverto la musica. Gioco, gioco con la musica. Gioco, gioco con la musica. Gioco eternamente cammino di Gigi D'Agostino. 8 marzo, festa di tutte le donne. È la festa della donna. Alzatevi la gonna. Sono contento che esisti, donna. Donna, sono contento che esisti. Fratello. Napoli Trip. Artista. Gigi D'Agostino. Dal mondo normale siamo lontani, sulle mani. L'emozione che ti sta dando la canzone. Il tuo sognare e il tuo saper immaginare. E tutto questo ti fa viaggiare. Stai ascoltando. Titolo? Semplicemente. Artista? Gigi D'Agostino. Versione? Legna Mix. We'll be right back.

Gigi D'Agostino. Don't go away. Trust, scritto e diretto da Roberto Molinaro. Da quell'Olimpiade in avanti, Zatopek fu sempre uno degli avversari più temuti. Macinò risultati fino al 1954, restando imbattuto per 7 anni e 38 gare. Emil Zatopek, la locomotiva umana. Questa sera, alle 7, su M2O. Musica allo stato puro. È uscita la nuova compilation. 14 brani mixati. Traccia CD-ROM. E il nuovo cortometraggio musicale con tutti i DJ di M2O. M2O, musica allo stato puro. La nuova compilation di M2O. È nei negozi di dischi e nelle edicole a 9,90€. No. No, un altro aumento, ma come si fa? Come si fa? Si chiama il 130. Hanno raddoppiato la velocità, non il prezzo. Tiscali ADSL 4 mega flat, l'unica 4 mega senza limiti a soli 19,95€ al mese. E grazie al modem Tiscali, telefoni senza pagare il canone Telecom. Chiama ora il 130 o vai su tiscali.it. Fino al 31 marzo, i primi due mesi sono gratis. Offerte soggette a verifica delle coperture di zona, servizio telefonico VoIP, costo del modem 5€ al mese. Per le condizioni di limitazione tecniche dei servizi vai su tiscali.it. Dopperdam Industry, abbigliamento per cyborg consumatori, ha creato la collezione primavera estate di M2O. Cerca le t-shirt M2O Rotterdam Industry nei negozi della tua città e indossa la musica allo stato puro. Rotterdam Industry, collezione di abbigliamento per progetti molecolari ad alta densità emozionale. Info m2o.it e rotterdamindustry.com. M2O, musica allo stato puro. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Musica, musica. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Gigi D'Agostino. Musica, musica. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Gigi D'Agostino, un uomo scuro, scontroso e un po' giocondo. Musicista, sognatore, imprenditore e vagabondo. Un piccolo paese fuori dal mondo. Bella questa cosa, possiamo leggerla. Forza. Was with the telephone, the beer, I'm a statue, the one's my blue, which you know, I'm a pomeriggio, 12 marzo, il 12 marzo, domenica pomeriggio 2006, dalle 15 alle 17. Al FIP, Fiera di Rimini, nello stand M2O Newmark. Arrivano da lontano, provenzino e d'agostano. It's not a glass of wine, it's not a glass of wine, but a special... Non è mica un bicchierino, è provenzano e d'agostino. It's not a glass of wine, but a special out of mine. È giusto, devi far rima, suona bene. Ma torniamo a noi. Uno, due, uno, due. Questa è la marcia. Questa è la marcia. Lento, violento. Lento, violento. Lento, violento. Lento, violento. Per cambiare rotta. I can feel in my heart that you need me tonight. You'll be only the one, you are my baby. I can feel in my heart that you need me tonight. You'll be only the one, you are my baby. www.gigidagostino.com. Ti si apre la paginetta e scegli la canzonetta. Per votare basta cliccare. Sta suonando il cellulare. Yeah. 8 marzo, festa di tutte le donne, è la festa della donna. Sono contento che esisti, donna, sono contento che esisti. Di tutte le donne. Sono contento che esisti. Donna, sono contento che esisti. Mi annoierei con tutti questi uomini. Stai ascoltando Más Fuerte. Uomo suono. Pensieri e percorrendo con me i più oscuri sentieri. Yeah.

pubblicità. M2O e Newmark al SIB di Rimini. The best audio and video technology. Dall'11 al 14 marzo la migliore musica con i DJ di M2O. La migliore tecnologia con Newmark. E dall'11 al 13 marzo in diretta dal SIB. Out of Mind, mixa and selecta dal vivo Provenzano DJ. M2O al SIB di Rimini. Stand Newmark. Dall'11 al 14 marzo. Questa non te la puoi perdere. Domenica pomeriggio, 12 marzo 2006. Dalle 15 alle 17. Arrivano da lontano Provenzino e D'Agostano. Non giochiamo. Sulle mani. It's not a glass of wine, but a special out of mine. Eh? Non è mica un bicchierino. È Provenzano e D'Agostino. Preciso. Allo stato puro è di nuovo su CD, 15 tracce mixate, traccia CD-ROM con l'archivio delle sigle e le schede dei DJ di M2O. In più il nuovo cortometraggio musicale M2O Eleven. Put your hands up. Mixa and selecta number one by Provenzano DJ. The dance movement number one. La compilation di M2O è nei negozi di dischi e nelle edicole con il nuovo numero di Pianeta M2O a 9,90 euro. Matteo, Matteo, andiamo al cinema stasera? No. A cena fuori? No. Ma insomma, cosa devo fare per convincerti? Ecoincentivami. A marzo puoi avere Lancia Y con finanziamento a tasso zero ed ecoincentivi fino a 1.500 euro. Lancia Y, tua da 9.950 euro con ecoincentivi. Importo massimo finanziabile 10.000 euro. TAG 2,51%. Ecoincentivati sabato 11 e domenica 12 in tutte le concessionarie Lancia. M2 Online. Connessione veloce. Figa quanto spacchi M2O, vai con Gigi D'Agostino e il suo cammino, se non la mandi t'ammazzo, figa. Ciao M2O, sei grande, la Ragusa. Dario, ti amo! M2O, musica allo stato puro, con Gigi D'Agostino vai sicuro. 800 800 626 M2O. Oh, finalmente dorme. Guarda com'è piccolo. È incredibile, ne voglio ancora. Ma subito subito. Certo, prima che crescano. Allora sbrighiamoci. Sono nati, sono piccoli, sono i prezzi da numero uno. Scoprili da Media World dal 2 al 25 marzo su PC, TV, DVD, Hi-Fi, cellulari, piccoli e grandi elettrodomestici. Media World, questa è la risposta. È tornata Hitmania Club Dance con tutti i successi del momento. Hitmania Club Dance, la compilation per chi ama la dance. In allegato a Hitmania Magazine, in edicola e nei negozi di dischi a 9,90 euro. Il primo magazine che ti dà spazio nel numero di marzo. V per Vendetta, il film più ribelle di Hollywood. Parla Frances Bean, la figlia di Kurt Cobain e Courtney Love. Musica, Ben Harper, Morrissey, Placebo e Coolio con Snoop Dogg. Libri, il ritorno di 3 metri sopra il cielo. Il nuovo numero di XL è in edicola a solo 1,90 euro in più a richiesta con Repubblica. M2O dal vivo. Out of Mind. Stripes. Out of Mind, Provenzano DJ per sabato 11 marzo. Hanno selezionato Discoteca River Piper, Terra Nuova, Bracciolini, Arezzo. M2O dal vivo. Il programma col cuore di un bambino è il cammino di Gigi D'Agostino. Resterà piccino.